la profezia della gloria di Cristo. Ascoltate dalle cose dette dal profeta David come Dio Padre di ogni cosa avrebbe condotto Cristo in cielo dopo averlo risuscitato dai morti e lo avrebbe trattenuto finché non avesse annientato i demoni suoi avversari e non fosse completato il numero di coloro che da lui erano già conosciuti come buoni e virtuosi, a causa dei quali non ancora ha compiuto la conflagrazione. Queste le parole. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra fino a quando porrò i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Uno scettro di potenza invierà a te il Signore da Gerusalemme e dominerà in mezzo ai tuoi nemici. Con te il dominio nel giorno della tua potenza tra i bagliori dei tuoi santi. Dal seno ti ho generato prima della stella del mattino. La frase, uno scettro di potenza invierà a te da Gerusalemme, annuncia la parola di potenza, parola che gli apostoli suoi, uscendo da Gerusalemme, annunziarono ovunque e nonostante sia stabilita la morte contro coloro che insegnano o che confessano il nome del Cristo, noi ovunque lo accogliamo e lo insegniamo. Se voi come nemici presterete ascolto a queste parole, non potete fare altro che ucciderci, come abbiamo detto, ma ciò non ci reca alcun danno, mentre a voi e a tutti coloro che ingiustamente ci sono nemici e non cambiano, procura pena eterna nel fuoco. Cristiani prima di Cristo. Affinché alcuni senza riflettere e per respingere il nostro insegnamento non dicano: se noi affermiamo che Cristo è nato 150 anni fa sotto Quirino e più tardi sotto Ponzio Pilato ha insegnato quello che noi ora insegniamo, e non obiettino che gli uomini vissuti prima non hanno alcuna responsabilità, anticipandoli, scioglieremo la difficoltà. Ci è stato insegnato che il Cristo è il primogenito di Dio e abbiamo dimostrato che è il Logos di cui partecipò tutto il genere umano. Coloro che hanno vissuto secondo il Logos sono cristiani, anche se furono ritenuti atei, come tra i greci Socrate e Eraclito, e quanti furono simili a loro. Tra i barbari Abramo, Anania, Azzaria, Misaele, Elia e molti altri, dei quali in questo momento tralasciamo le opere e i nomi, sapendo che è cosa lunga farne l'elenco. Cosicché anche quelli che erano nati prima e che vissero senza il Logos, furono cattivi e nemici di Cristo e uccisori di coloro che vivevano secondo il Logos. Coloro che avevano vissuto e vivono invece secondo il Logos sono cristiani, non hanno paura e non si turbano. Per quale causa, grazie alla potenza del Verbo, secondo la volontà di Dio, Signore e Padre di ogni cosa, sia stato concepito un uomo da una vergine, sia stato chiamato Gesù e, crocifisso, risuscitò e salì al cielo, colui che ha intelligenza potrà comprenderlo dalle cose che sono state dette. Noi però, non essendo ora necessario questo discorso alla dimostrazione, accederemo alle prove che sono urgenti al momento presente. Profezie sulla terra dei Giudei. Ascoltate ciò che è stato detto dallo spirito profetico sul fatto che la terra dei Giudei sarebbe stata distrutta. Le parole sono pronunciate come per bocca di popoli che si stupiscono dell'accaduto. Sono queste: è diventata un deserto Sion, come un deserto è divenuta Gerusalemme. In maledizione la casa, il nostro luogo santo e la gloria che i nostri padri lodarono, sono stati divorati dalle fiamme e sono crollati tutti gli ornamenti. Di fronte a queste cose fosti immobile, hai fatto silenzio e ci hai molto umiliato. Che Gerusalemme sia divenuta un deserto, come era predetto che avvenisse, ne siete persuasi. Dal profeta Isaia così era stato predetto riguardo alla sua desolazione e riguardo al fatto che a nessuno di loro era concesso abitarvi. La loro terra è deserta, davanti a loro i loro nemici la divoreranno e non ci sarà tra di loro uno che abiti in essa. Ben sapete che da voi è sorvegliata affinché nessuno vi abiti e che la morte è stabilita per il giudeo sorpreso a entrarvi. I miracoli di Cristo e la morte. Ascoltate ciò che fu detto quando fu profetizzato che il nostro Cristo avrebbe curato ogni malattia e avrebbe risuscitato i morti. Ecco le parole. Alla sua venuta lo zoppo salterà come un cervo e sarà sciolta la lingua dei muti. I ciechi vedranno e i lebbrosi saranno purificati e i morti risorgeranno e cammineranno. Che fece queste cose lo potete apprendere dagli atti che furono scritti sotto Ponzio Pilato. Dalle parole dette da Isaia ascoltate in che modo fu predetto dallo spirito profetico che Gesù sarebbe stato ucciso insieme agli uomini che in lui avrebbero sperato. Queste le parole. Ecco come è morto il giusto e nessuno lo riceve nel cuore. E gli uomini giusti sono uccisi e nessuno vi riflette. Dalla faccia dell'ingiustizia è stato tolto il giusto e in pace sarà il suo sepolcro. È stato tolto di mezzo. La fede dei gentili. Ascoltate come anche da Isaia stesso è stato detto che lo avrebbero adorato i popoli delle nazioni che non lo attendevano, mentre i giudei, che da sempre erano in attesa, alla sua venuta non lo avrebbero riconosciuto. Le parole furono dette come da Cristo in persona. Sono queste. Mi manifestai a coloro che non mi chiedevano, fui trovato da quelli che non mi cercavano. Io dissi, eccomi, al popolo che non aveva invocato il mio nome. Ho disteso le mie mani su un popolo senza fede e oppositore, su coloro che camminano in una via non buona, ma dietro alle loro colpe. Il popolo che mi odia è davanti a me. I giudei, infatti, pur possedendo le profezie e sempre in attesa del Cristo, una volta venuto non lo riconobbero, ma non solo, lo disprezzarono persino. Ma tra gli altri popoli, coloro che nulla avevano mai ascoltato riguardo a Cristo, fino a quando gli apostoli partiti da Gerusalemme annunziarono le cose che riguardavano lui e rivelarono le profezie, pieni di gioia e di fede si allontanarono dagli idoli e per mezzo di Cristo consacrarono se stessi al Dio ingenerato. Ascoltate ciò che è detto brevemente da Isaia, poiché furono conosciute in anticipo le calunnie che sarebbero state scagliate contro coloro che testimoniano Cristo e quanto miserabili sono coloro che lo bestemmiano, dicendo che è bene mantenere gli antichi costumi. Ecco le parole. Guai a coloro che dicono amaro il dolce e dolce l'amaro. Le profezie della passione di Cristo. Ascoltate le profezie pronunciate riguardo a ciò, che fattosi uomo sopportò di patire e di essere disonorato, e che di nuovo sarebbe venuto nella gloria. Così è detto, in cambio di coloro che consegnarono a morte la sua anima, e in cambio dell'essere considerato fra gli ingiusti, egli assunse i peccati di molti e si riconciliò con coloro che erano fuori della legge. Ecco, infatti, che il mio servo comprenderà, sarà innalzato e sicuramente glorificato. Come molti per te si meraviglieranno, così dagli uomini sarà infamata la tua persona e dagli uomini sarà disprezzata la tua fama, cosicché molti popoli si meraviglieranno e i re chiuderanno la loro bocca, poiché coloro ai quali nulla fu annunciato su di lui e coloro che non ascoltarono comprenderanno. O Signore, chi crederà al nostro racconto? A chi fu svelato il braccio del Signore? Lo annunciammo nel suo aspetto come un fanciullo, come una radice in una terra arsa. Non ha un'immagine gloriosa. Lo vedemmo, non aveva né aspetto né bellezza, ma la sua persona era incolta e misera agli occhi degli uomini. Un uomo piagato, che sapeva di subire sofferenza, poiché la sua faccia era stravolta, fu disonorata e non fu stimata. Egli porta i nostri peccati e soffre per noi. E noi comprendemmo che egli si trovava nell'abbattimento, nelle percosse e nella sofferenza. Egli fu coperto di ferite per la nostra iniquità, stremato per i nostri peccati. Un insegnamento di pace è su di lui. Dalle sue lividure siamo stati guariti. Tutti come pecore ci siamo smarriti. L'uomo ha dirottato dalla sua via, consegnò se stesso per i nostri peccati. Mentre è maltrattato, non apre la sua bocca. Come pecora fu condotto al sacrificio e come agnello muto, davanti a colui che lo tosa, non aprì la sua bocca. Nell'umiliazione fu emesso il giudizio su di lui. Dopo che fu crocifisso, anche coloro che lo avevano seguito lo abbandonarono, dopo averlo rinnegato. Poi, dopo che risuscitò dai morti, che apparve loro e insegnò a meditare le profezie nelle quali è predetto che sarebbe accaduto tutto ciò, Dopo che essi lo videro salire al cielo, credettero, e ricevuta dall'alto la potenza che su loro fu inviata, recandosi presso ogni razza di uomini, insegnarono queste cose e furono chiamati apostoli. La profezia dell'ascensione. Lo spirito profetico, per indicare a noi che chi patisce queste cose è di origine ineffabile e regna sui nemici, così disse: chi potrà parlare della sua origine? Poiché la sua vita si innalza dalla terra, egli affronta la morte per le loro colpe, e porrò i malvagi davanti al suo sepolcro e i ricchi davanti alla sua morte, poiché non ha commesso colpe né fu trovato inganno nella sua bocca, e il Signore vuole purificarlo dalle piaghe. Se date un'offerta per il peccato, la vostra anima vedrà un seme longevo. Il Signore vuole allontanare dal peso della sofferenza la sua anima, mostrargli la luce e formarlo con l'intelligenza, giustificare il giusto che bene si pone al servizio di molti e porterà i nostri peccati. Per questo motivo erediterà molti e dividerà le spoglie dei forti. Al loro posto fu condannata a morte la sua anima e fu considerato tra gli ingiusti ed egli stesso assunse le colpe di molti e fu consegnato a causa dei loro misfatti. Ascoltate come anche sarebbe asceso al cielo, così come fu profetizzato. Fu detto: aprite le porte dei cieli, spalancatele, affinché entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Un Signore forte e un Signore potente. Ascoltate ciò che ha detto il profeta Geremia riguardo al fatto che dai cieli sarebbe ritornato nella gloria. Le parole sono queste: ecco come il Figlio dell'uomo giunge sopra le nubi del cielo e i suoi angeli con lui. La seconda venuta del Signore. Poiché dunque abbiamo dimostrato che i fatti accaduti sono stati tutti predetti dai profeti prima che accadessero, è necessario credere che sicuramente accadranno quelle cose riguardo alle quali è stato predetto in modo simile il loro avverarsi. Nel modo in cui si compì ciò che era stato predetto ma sconosciuto, allo stesso modo accadranno le altre cose anche se non si ha conoscenza di esse né fede. I profeti, infatti, annunciarono due venute di lui, una che è già avvenuta come di un uomo senza onore e sofferente, la seconda quando si annunzia che dai cieli riapparirà nella gloria con le sue schiere angeliche, quando risusciterà i corpi di tutti gli uomini esistiti e vestirà di immortalità coloro che sono degni, e i corpi degli ingiusti, insieme ai demoni malvagi, getterà nel fuoco eterno per un'eterna sofferenza. Dimostreremo, come sia stato predetto, che anche ciò sarebbe accaduto. Così fu detto dal profeta Ezechiele: sarà ricongiunta una giuntura all'altra, un osso all'altro osso, e la carne ricrescerà. Ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore e ogni lingua lo confesserà. Con quale senso di percezione e in quale pena si troveranno gli ingiusti, ascoltatelo da ciò che fu detto riguardo a ciò. Ecco le parole: non finirà il loro verme e non sarà mai estinto il loro fuoco, e allora si convertiranno quando non gioverà a nulla. Ciò che i popoli dei giudei diranno e faranno quando lo vedranno ritornare nella gloria è stato profetizzato dal profeta Zaccaria, e così è stato detto: ordinerò ai quattro venti di raccogliere i figli dispersi, comanderò al vento di Borea di portarli e al vento di Noto di non porre ostacolo. E allora in Gerusalemme vi sarà un grande pianto, non pianto di bocca o di labbro, ma pianto di cuore, e non stracceranno i loro mantelli, ma le menti. Si percuoteranno tribù per tribù e vedranno colui che trafissero e diranno: perché, o Signore, ci hai fatto deviare dalla tua via? La gloria che vantarono i nostri padri si è trasformata per noi in vergogna.